vicenda della sospensione di Mauro dalla RAI, Radio Televisione Italiana, per un tempo indeterminato è uno degli eventi più gravi, secondo me, di tutta la vicenda degli ultimi anni. Siamo di fronte a una situazione ormai paragonabile a quella orwelliana, in cui esiste solo una verità, quella ufficiale, e in cui praticamente tutti i media italiani seguono, con pochissime eccezioni, la linea secondo cui l'unica verità accettabile è quella ufficiale. Ora, io credo che questo sia un limite oltre il quale non si può consentire che la situazione vada. Credo che occorra fare uno sforzo da parte di tutti gli intellettuali, i giornalisti, quelli che hanno ancora la schiena dritta, e in generale il mondo della politica, della cultura e dell'intelligenza italiana, di far sentire la propria voce, altrimenti credo che supereremo la soglia oltre la quale sarà difficile parlare di democrazia.